castello, ad ogni occasione per te, caro il mio re. Entro nella tua stanza, incrocio il tuo sguardo, oddio cosa hai fatto, stai mica morendo, or su dai resisti che io sono qua. Tu non parli ma guardi, io ti guardo e tu mi guardi, e capiamo veramente che c'è l'ultima volta che staremo insieme, che staremo insieme. Eccolo che inizia l'ultimo spettacolo del tuo giurarti con te. E se ti conosco, ti piacerà tantissimo. Sono sicuro che dalle risate ti ucciderà. Sire, mettete in conto. Ecco che inizia lo spettacolo. La sola certezza è che fino alla morte.